mari, volate facendo giù mari, dormitosi. C'è nessuno? Attenzione, birbantelli! Attenta guffetta, c'è facendo c'è? C'è facendo? Mi ho fatto la barba, un giro di rasoio di capelli, me l'ho fatti corti corti. E niente, mi sto guardando la TV poco qua, col cellulare, e poi a 10 mi porto la barba, tutto bello profumato. È vero. E allora, preparato proprio al puntino. Siamo sei mari al russo allora. Ehi, tipo che di un vicino mi posso una maglia da succiaduta. Ah, perché ti prende ancora il capo, il suo vicino cinese, una succiata. È vero. E cosa è succiato? Non l'hai visto, si è succiato un riso, e da me cosa va via? Li bevarono, cosa si la mangiate? Fagiolino, batatto, ugli. Oh, tu. Eh? E tu cosa è succiato? Oggi polpette con il sugo, prima niente. E quelle che ha fatto ieri sera Paoletta, le zucchine ripiene, e poi era rimasto e ha fatto una teglia di quello che è rimasto, del preparato, era drupo. Tipo frittata, è una focaccina per accompagnare il tutto. Una focaccina? Per accompagnarmi le polpette con il sugo, quella zucchina, me la ci mangiamo, di questa zucchina. E un pezzo di quella tortina, diciamo, là. Ah, ho capito. E glicemia come ce l'hai? No, stasera, a mezzogiorno, 239 prima di pranzo. Adesso me la misuro stanotte prima di cena. C'è un dolce, un pacco di dolci, qui mi dico che va bene l'anzura. Metti in tenti, me. E anche mamma, ultimamente, sarà alta. Ma io perché sto prendendo questi cortisoni. Gli so come gli anni lumi, più un altro che più forte il cortisone, ha dato prima. Mia parola che è andata a pagamento, 14 euro, le bustine, bag 2, chi si deve fare i grampi, quelle le pago. Non passano, no? No, quelle le devo prendere, però le recupereggio, le pago. E siccome ce le avevo, erano sconti che ce le ho buttate, perché non le devi prendere per molto tempo. Adesso io di queste ne prenderò una decina che mi bacia le grampi, compri, e poi sospendo. Poi quando mi viene le do raffigliate. Eiaia. Come si chiama? Due funzi. Mi ho mangiato a pranzo, è una banana mi ho mangiato. Sì, no, ho schizofrenia già a macchia, se non ti rimani la bici così di gruppo, ne è rimasta una. Mi sono capitato da bui, ma ci mangiato una banana e non rossi. Come la vuoi tu? Verde? No, le ho preso facci, sono punti scuri. Quando si fanno così, ecco, tagliate dentro, mi capito? Crudi invece non mi piacciono, però. A chi non hanno il sapore crudo. Invece, mentre si sono avanti, rimane più molti e cosa rimane. Prese quella della dole, cos'è che le prende? C'è le battaglie lì. Veniva dalla Turchia, caricava un camion, la prendeva Oscar, un romanaccio che aveva il deposito con le celle frigoriferi dove c'era autotrasporti Gondrand di fronte al capannone, e un altro capannone, era tutto celle frigoriferi. Le portavo lì e le scaricavo, tutte le volte li caricavo me li dava a mezza gaccetta. Ma sono buone, ho voglia. Io preferisco mangiarmi più una banana che una merendina. Guarda che la banana c'è un sacco di vitamine, fa di bene all'ossi, anche ai grampi fa bene. Guarda che tu se ti mangi tre banane, sei già secchio, a mezzogiorno, se vuoi fare una dieta, non mangia pane, mi dice qualcosa così. Ti mangi tre mezzi banane. E lei come ti sei mangiato? Una pasta asciutta, primo, secondo e terzo di frutta, hai compreso? Prova, Cimi, quando vuoi un po' di dieta, che poi un po' di dieta già non ti fa male, ti ho visto in costume in quella foto e sei bello grassottello. Ehi, con quel costume celestino. Ehi, cagaru. Grazie. Ehi! Ehi, sì, cioè, prova a dire la diabetologa tuya, quindi la banana la puoi mangiare. Ah, caro, dico! Ma la diabetologa tuya si è d'accordo a mangiare i banani, ricudi, a capo ti ricudi. Cosa? Io se non può mangiare nulla, che si cantante che da mi comincia. La, non una mela, mi raccomando, la metà di una mela e sbucciala pure. E chi passa se fai pennette, minimo di 15 pennette non ti mettere nel piatto. Tutto così mi dici. E io sì, se non si preoccupi, non è che ne mangio molto, passa, e io tra i miei, vai e fuma, e cosa mangio il banano, un fumo. Ma la banana è, lo sai chi? Che fidei, non si? A me mi aveva detto, se la deve mangiare qualcuna ma verde. Verde, perché poi gialla è troppo matura, troppo zuccheri. Lo so che c'è un bel di zuccheri, infatti quando me la mangio mi assetta, ma non è che me la mangio spesso, mi ha tanto me la mangio. Adesso me l'ho mangiata per via dei grampi, perché vado via dei grampi. Ma adesso mi ho comprato le medicine e non le mangio, compreso. Già lo so. E però a me cruda non mi piace, oh, non c'ha sapore cruda quando è verde, mezzo verde, mezzo giallo. A me mi piace così come te, è già cotta. Lo so, però fa malissimo, malissimo. Va bene, mi le mangio un gnadino, in un mese me ne posso mangiare tre, da, non di più, perché io le compro spesso perché le mangia a chicca e fa sporto e ne mangia un bel banano, pare una scimmia. Pure a Luca Biasene. Io rimagno, tu non lo so cosa fai. Lui. Ok, Biasi. Verde, anche tu c'è ancora, capito? Grazie. No, verde non mi piace. Tu la cubicchia, poi non so cosa fai, la notte. E poi si è trauritto e la voi. Ma è di dolci gravalla, va bene, l'incella frigorifero pure in Antalana. Ma enormi erano quelle banane, dalla Tunisia arrivavano, Turchia, quella zona lì. E ne minavo un treazzi con la centina sollevata, lo bussavo un camion brutto. Un bel. Uno e due cacci ne ha girato, quando mi filmava la polizia, a Senni, chi mi ha urissano, puzzinosi, che te c'è di carico, e io banane, casa banane. E beh, per casa non ce n'è te, una cascetta, va. Affogati, così è. lui. E allora, però mi lasciavano andare, ma adesso si bugnava la cosa, chi fa di un 5-6 chilometri mi bloccava la sabatuglia, o mi bugnava il barbaro mi lasciavano andare, compreso, o si cavano del crucapo, lui dice, sa chi si ridati a uno non ridati all'altro, io. Allora, tre fazia uno verbale, ma le altre fazia l'altro, e dopo si dividi anche la cassetta dei banani. E ti buttiano i due volti, boh. E un bel di volte mi capitava che me li ritrovavo un'altra pattuglia, forse il blocco più in avanti, dopo 5-6 km. E tra i miei di già, all'impegno che l'hanno chiamato alla radio, sono forse d'accordo. A chi pure che mi facevano la battutina, ma non gliene davo. A chi da poi se non me li doveva pagare, massimo ne potevo sacrificare una cazza e non mi diceva niente Oscar. Che gli dice provate la pattuglia che mi viene a rimanere in un capo e non mi dice nulla, ma se comincio una, due, tre, allora non andava, chi se me ne fate a pagare? E poi diventava le scimmie, diventava. E così a cosa? A Piombino, all'uscita del porto, la finanza. Sì, alla zia una posta dove, due cartelli dove di da zia, a tutti i finanzieri, per casa che c'è bambini, te per casa e bambino una cartella appurata, e chi me va giù i gradi, sa stare sicuro, vera, l'infinati, va giù i gradi, va giù quattro figliori, allora te due cartelli, ora mi riconosci aia, però mi lasciavano passare. Ce n'è il signore Carabinieri, nel Nuorese, vai chi mi va, giù di cori l'ha aiutato, ma l'ha mandato, puzzinosi in inverno, mi. Luca, e lui, riprendi, ma c'è prima niente, e lui, no, stavo guardando Facebook, ah, mi due messaggi, a me messaggi mi spiegare, Luca, un altro Luca, poi chi c'è? No, due Luca sono, chi sa cazzo? Oh, la giuvitù di più a Parigi. Lì, però cosa stai facendo? Cubicando? E cos'è che stai cubicando? Ah, pezzi di macchina, andave. E Gianmaria non si è sentito. Chiamami. Ma lei che sente su mari, si intende mari? Come ti è parlato in campagna molto zappa, Luca? No, stiamo sentendo. Dopo pranzo, va. Mm. Fatto un po' di roba. Ah, a chi non sente si manca rimane, non l'ha gentito, è rimasto quando ha acceso il PMR. Pensavo che magari l'abbia provato, compreso. E meglio così, se è tutto a posto. Ma cos'è che avete la brottola contro di me? Se ti dici faccia la cosa. Allora come ti tacciare? Era mi preoccupato, cioè chi sul travaglio che hai fatto in campagna l'abbia provato. Bello zuzzo me. Cazzo. Comunque le banane prima di mangiartele te li devi addrizzare tu. No, quando sono d'occhi che sono ben gialli, non tirano più, sono andati. E rimane i gotti. Luca, però queste, il coso, il retrovisore, è troppo enorme, non andare bene. Capito, è bello bene. Quanti, cosa vuol dire andare? Troppo macio, mi. Sto cazzalla. Ciao Lu, comunque, buonasera. Ecco, sto cazzalla, boh. Non lo vedi quanto sono colchi. Crocro. Sai che tu non hai mai visto allora. Già non ha più visto, buono di meglio. Sì, però. Lu. A Vicente. Ma cosa è così basso? Boh, ti sento strappazzato, boh, tutta scarica. Ma mai tu da Graziano? Io lo sento bene, John Mari. No, io lo sento male, veramente male, boh, strano, eh. Dovrebbe arrivare bene a me che a te, anzi, su per giù siamo la distanza come te, vai. Magari si sarà spostato quando stava parlando con te. Se sta usando il PMR manuale sta usando, Luca. Comunque io ascolto meglio a Graziano, cioè Graziano è chiaro e tu Gianmari sei frusciato, capito? Guarda, controlla qualcosa e gira. Graziano mi arriva chiarissimo, Luca mi arriva chiarissimo. E tu invece sei mezzo al QRM. Io sono volantinino piccolo, già lo sai, con quello piccolino che c'è. Con quello sono la parte dietro, puoi immaginare. Anche a me arriva frusciato, ma con il rumore del QRM sotto. Vabbè, verso Monte Alvaro, quella zona là, e le cucate innanzi alla banca la radio, e chi ci sono un pulsante in buco. A voi, a Luca Montanaro, sento, sembra che sia qua vicino, a Graziano Rosso, e a te ti sento tutto strappato, ma strappato, tutto quel remato, lupo. Anche Luca ti ascolta così, Giomari, fai qualcosa, buona antenna di Vura. Sì, Giomari, un po' ti ascolto bene, però con il sottofondo. A Luca lo ascolto bene, a Graziano vabbè, siamo a due passi. Luca, ma arriva a scariche, ma arriva a voi, vi sento perfetti, capito? Strano, è proprio strano, eh. A me mi senti perfetto, o a Luca lo senti a scariche? A Luca, tutte a scariche lo sento, sì. No, io lo ascolto benissimo. Vabbè, sai, con questa frequenza, Gio Mari, è un giramento di scatole. Ma siamo vicini, Mino, con Luca, impedimento, vabbè, io sono a parte dietro, forse anche per quello, perché io sono di dietro in cameretta con l'antennino, capito? Eia. Luca! Eia. Non lo so, Giammari, io ti sento tutto frusciato, Luca ti sente tutto frusciato, non lo so. Avanti, grazie, dai, che sto facendo cosa? Ma io a Giomaria già lo sento bene, qualche volta lo sento un mazzo perché magari sta guardando la TV, schiaccia le cose e parla, però già lo sento bene. A te ti sento bene, a Luca qua e a Di Basso, intendo bene. Torre lo sento benissimo lo stesso, a Marino in questa posizione come adesso la radio è una bomba. Se lo sposto da questa posizione per dire se la metto dritta la radiolina, sopra il tavolo li tengo tutti a pezzi. E cos'è? Un palmo se la dritto sul tavolo la radio. A Marino lo sento tutta a scariche, invece cucato così come te un biglio bello forte. A Giulio lo stesso, in questa posizione lo prendo benissimo. Ebbene, mangiando ancora sai, Luca. No, io no, io ho finito. Per oggi ho finito. Fissa, saluti. Non si è sentito nessun altro, ma chi già sarà piegando le zappite, zappittoni, in campagna. E oggi cosa hai combinato? Nulla di niente, Luca. Io? Oggi mi stavo terminando un computer, l'ho consegnato. Poi cos'è che ho fatto? Niente, quel PC. Ho visto quel PC che hai riparato, l'hai messo in vendita. Non l'hai venduto quello? No, non l'ho messo, non è in vendita, è di Manuele era. Non accendeva. Ah, no, ce n'era uno, no, di quelli da base, di quello fisso, che c'ha un circolo lì a Cappuccini, e stava cercando a cambio di quel computer un televisore. E laggiù mi ha dato un messaggio, gli ha detto, ti interessa la vasca da bagno, non va, non va ancora imballata, e mi ha detto di no. E la giudice, e il televisore, vabbè, ce l'ho, sono 32 pollici, c'ho anche il mobile, c'è tutto uguale. E se ti interessa, vieni a vederlo, mi dai quello e ti si buttisce, tanto fino a già se tre in campagna. Te lo accendi, te lo provi in campagna. Dice, ma sono a piedi, cosa vuoi che ti la regga a domicilio? Se lo vuoi bene, ce lo bisogna. Scusa, Questo ti dava un computer? Sì, mi dava un computer fisso, che su motore, come si chiama, il monitor, e un altro pezzo c'era che non so cos'è. C'è il circolo a Cappuccini, mi ha detto, gli serve il televisore per il circolo. Infatti stavo guardando poco fa, non c'è più la foto, a meno che l'ha già avuto. Cosa stai perdendo, grazie? Io una vasca da bagno nuova, nuova, imballata ancora, mai piazzata. Mi pare che pure la biletta completa. E poi quel televisore col carrello che c'avevo qua in casa, che l'ho sceso in campagna. Anche quello, col mobile è grigio, il televisore è grigio anche il mobile. Adesso come mi senti, Luca? Adesso bene. Adesso va bene, no? Vabbè, magari Luca si è chiuso adesso, così è. No, sta facendo delle parti di una macchina, le sta cubicando. Ah, aspetta, vediamo un po' se risponde. Luca! Ma io? No, l'altro è bello, dai, tu sei brutto. Ehi, ti sento bene, ti ho detto. Ah, già, non ti avevo capito che c'è. Vabbè, tutto lì, dai, cos'è che si è combinato? Illuminami. Stavo mandando un messaggio a Graziano. Guarda Luca se ti ascolta bene adesso. Ehi, prova a fare un passaggio. Adesso. Adesso la vorrebbe andare. Ma però adesso non è fatto il QRM. Sì, sono la parte dietro lui. Così che bisogna calcolare che sono dietro, così che entro casa. Adesso te sentirsi, dai. Poi siamo vicini anche. Tra bene, grazie. Ma a bagno andato, va a vedere la vasca da bagno. Giovanni in campagna ti serve la vasca da bagno, Graziano e dendemi. Pure in campagna e così le gatti, i pizzoni, i pizzini. In campagna almeno mi sei la vita, per la doccia in campagna, mi sei la vasca da bagno c'è. C'ho la doccia in campagna. Va bene, la vasca da bagno per uno che ha l'appartamento in campagna. Poi in campagna non mi niente va la vasca. La vasca è nuova, quella l'avevo pagata 170 euro e più la piletta a parte. È ancora ballata nel cartone, l'ho presa per qua, ti ricordi io la vasca che avevo nel bagno sotto la finestra. Adesso non ce l'ho più e mi ho messo la doccia di fronte nell'angolo. Quando apri la gianna avevo il box doccia col piatto luce e la finestra è libera, te la ricordi Giovanni? Già me la ricordo. Ma con la vasca bello, capito? Che lui c'è il motorino, deve andare alla Sinara, quello va bene, attacca alla vasca da bagno ed è tranquillo, perché è galleggiante con la vasca. Sì, lunghezza è 170, la larghezza non me la ricordo adesso, però era così. E non va ancora in balla da un gattone, mi ha già stato dai nonchi, l'ha giù confrontata. Qui, aspetta la pianeta a paletta, gli la buon gusto, perché ci sta va dentro, mi ha incasso. E invece la bella di tu, guida, ne voglio una doccia, insomma, allora te la fare in garage. E poi ho fatto la doccia. Ma perché te l'hai comprata allora, due volte che... Perché hai messo la doccia, così è. La doccia c'ho adesso, il box doccia, che l'ho presa la bricome. Pure a 150 euro a piazza Milo, un imbecille, l'ha detto, cazzo vuoi, la capisci, vai, già sto andando a comprare a Milo e mi rompi la sui. Faccio un po' su, un quarto d'ora a piazzarlo. E pure a 150 euro, un pizzino di cazzo in questa zona, non sei giù, mi chiamano. È migliore, dai, è migliore l'impianto a doccia, dai. Dai, è migliore, specialmente alla stessa e ci vorrebbe, a me pure mi piacerebbe adesso, magari prima non mi piaceva, mentre adesso mi piace più perché magari alla stessa età, sai com'è, c'è brinchetto e manda a me. Giovanni, aspetta che non ti ho copiato, mi sta facendo cosa Paoletta. Itera! Sei più pretendi, chissà cosa prendi Luca e Monte. Cosa prendi Luca il bello? Luca il bello c'è un weekend di ricorra. Cosa sei puntendi? Cubi Candy! Oh, io gente sei puntendi! Buonasera, signor Tore! Buonasera anche a lei, Luca e Gian Maria. Poi, signor Tore, buonasera! Buonasera, Gian Maria! Catta! E la gente sui puntendi si rigorra! Aperto! Non c'è la gente su! Luca Rabito, non l'ha già detto io, mi! Lo so, non lo so, no! Luca! Obi! Obi! No, non ve ne so! Struttura niente stanotte! Tore, ti interessa la vasca da bagno, nuova, imballata? Cosa vai? Se ti interessa una vasca da bagno nuova e... No, ti sei pulsendo, se caricano la batteria ti sei pulsendo. Sto andando a mano a farti il bagno, ti filo sto. Copiato, non li posso fare né casa né lana, Giovanni, con questo bizzino. Arratti, arratti, fa vedere, arratti. scatta, ancora si sono arrodendo i denti, capito? Non possono parlare bene, capito? E allora, deve essere il crimi che ci vedevi di boh. E allora, chissà cosa mangia il dottore. Luca, sappiamo già che sta mangiando pasta al forno. Chi dà tre cosci di pollo? Ecco perché non parlano. E allora, per carità, oh yeah. Adesso mi attendo l'altro di Bebuccio. Allora tu? Sì, Gian Mario. Cosa volete fare? Bah, ho detto, ma che ci hai sentito? No, oh, sono entrando appena. Sono appena entrato. Pensavo che fossi la prima pure, dai. Io pure acceso da poco. Saranno 5 minuti. E così via. Filippo è bello, cazzo, cioè, fammi da a ratti, Luca. E Lu. Dai, ci sei allora, cazzo. Ma solo cantare, sai. E Lu. Buonanotte. Ascolta. E se l'ho comprato a nuovo, quel cannello piccolo. Tu sai che non può rispondere. Non riprenderò, ohia. Ma che quando si riposa? Ah, vabbè, quando sono qui entra la gascia. Cosa va a rubare sopra la gascia, Vallu? No, Giuditto, Ghillo, quando si riposa? Si riposerà quando si può entrare a gascia. Per carità, gascia. Non si può fare il pino dell'anno così vicino, gatta. Poi c'è più mai niente, gatta. Piccolino, sì. Senti, non ho quello piccolino, quello corto. E allora, chi mi chiamo Luca, io che mi pongo di tappi in un naso per farmi venire l'influenza. Quello entra la gascia, parole. Giudito avrà finito il nome che entra, e sapete se ti viene un morbillo. Così è, eia, boh. Oh, grazie. Dimmi. Ma tu immagini, Luca, ti mendi a farsi questo tagliettino? Boh, per carità. A chi l'hanno detto che sul reparto non devi andare e se ne farà ne tre radici. Ah, si è chi sull'ereo durante la notte, se ho sette si barabani, quasi un anutti, quasi mi. Vedi la barella con 4 secondi vecchini, tutto da pato, pure dentro lo sacco che si bianchi, con anche lo zampolo. Ogni santa notte, di lì, uno, due, ma di notte vedi a capace a prima andarsi. Cazzo, pagisci Luca e ti mendi andare, ha ragione, allora sì. Cazzo, va a pinna incollato, sempre, prendendo le misure. vabbè, tu che c'è mia, tu vecchio, tu che pinna, butti che... Da quando sono qui non chiudo occhio, non riesco a dormire a chi intinga l'ugarrello tra la luce e le antenne. Luca, hai ragione, sì, hai ragione, a non andarvi. Poniti a fedui i tappi al mese che entra e non ha di farà da chi. Sono influenzato, non posso vedere cosa vedete. Occhio, ti faccio un diamante. Oggi che faccio un diamante, stai attento. Oramai non apri più bucca né aspirare. Oh, grazie, prima ci azzimantendi, con tutti su Facebook. Mi devo operare, devo andare, domani, da rito. Ah, alle 6 mesi, ogni volta che andai da si pone le molletta in un naso. A chi non si può operare, a chi team, a chi va a posi che è attaccata alla china. E tu hai la canna, catturata. No, l'ultima volta che è andato, ho influenzato. Se sei influenzato, non te ne fanno gli interventi, no? Ma buffonendoci, se ti manderà a casa è veloce il bruno. Quando sente bene venga, non si possono fare questi lavori così quando c'hai anche l'influenza. Non ti toccano, ti si mandano. Quando uno si mette tranquillo allora vai. Oh, se tre oggi domani mandano a trovarti e da rete ti si mandano. Ma già lo so, ma lo devo fare per forza, che quando si mettono in moto, io grazie a Dio non piglio medicinali, tipo, sai, quei medicinali pesanti. A drogare non mi drogo, perciò penso di sopportarla abbastanza bene, vabbè, già padrummittimi. Guarda che la mica ti drommi giusto, ti fa l'anestesia locale, ti dorme la parte, mica ti drommi giusto. Quello dipende da te, se hai paura glielo devi chiedere. Ma però, per fare questi interventi, ti fa ma però locale, nel punto, cioè dove devono lavorarci. Tutto un resto ci date, però tu non senti niente, sei come se chi andi da Rudetti, stanno andati in parte, la regione, i Rudetti, vedi la Rudetti, ti chiede di bucare, ti chiede di minuto e già prendi, compri, è la stessa cosa. No, la mia è totale, capito? Guarda che io l'ho fatta per gli occhi totali, ma ne dormi giusto. Per gli occhi sì, quando mi hanno messo i cristallini artificiali, lì me l'hanno fatta totale, ci ho formato due di rumito e fa delle barolacce l'infermiere, la ditta Paoletta, che è giù da gatta mi viene rumito. Vabbè, tu cosa ti provato per la patente, il ritorno, poi mi ha trovato così. Un bel po' di soldi ho risparmiato. Fate versamenti il 30 aprile. Ma tu sei andato, sei entrato nel cancello, sei andato dritto, hai girato a sinistra e poi a destra. E con la porta in fondo, sulla destra, lì sei andato. Ma l'entrata, c'è una vetrata, c'è già una due signore lì. Ho chiesto informazioni, mi ha dato questo foglio. Ho fatto tre versamenti e adesso devo portare le foto, una foto a colori e basta. No, io invece lì andavo, perché prima andavo in via Mendola per le patenti speciali, dovevo andare lì. Poi l'avevano spostato all'ex manicomio, però è sulla strada dove vado io, al centro dove vanno i disabili, mi capito? Io andavo lì. Tu invece sei entrato dentro dopo la sbarra in fondo a sinistra e poi a destra, già lo so dove. Dove sono andato a fare i vaccini, lì fanno anche i vaccini. È lì, già lo so. Già è lì, grazie. Vabbè, fatti un vaccino, mi piace un mio. Chi se ne frega? Almeno è già pagata. Adesso l'unica cosa è andare a aggiustarmi i capelli, poi farmi le foto, e poi andare a quelli per i Monte Luca, no? I ragazzi truffiati. Ti metti i boccoli la notte prima, la retina, così l'indomani c'è tutto ricciolino. Fuca! E comunque c'era anche, questo fuori c'era scritto se ero diabetico, se ero avuto malattie, se uso farmaci, eccetera, eccetera. Questo no, grazie a Dio, no. Quello lo chiederà tutto nel modulo che ti danno, lo devi compilare, se c'è qualche cosa devi mettere la crocetta, perché secondo cosa va, ti dice no, lei signore non ci deve venire qua, deve andare fuori all'esterno, all'entrata dove c'è quel portone marrone, lì passano gli invalidi, ti basta che va invalido. Allora Luca è invalido. Luca! Avrà bisogno di essere anch'io, salivi su al monte, caspita in questa viuzza, e trovate tutti in chivi, e risparmiavi un sacco di cose, risparmiavi, te la fate ne buoni in chivi, Mi hanno messo intorno ai 60 euro circa, 65, là 52. Ma te devi fare tutto tu, invece là risparmiavi, tempo e denaro. Già fatto l'aggiunto, forse è questo un problema. Ma ci ho fatto una passeggiata, rimbocchi, faccio bocchi un attimo, è il tempo di compilare i moduli, certo. Ma ci ho messo un attimo a farlo, dai. Pagato, l'unica cosa che devo fare è un affitto per la visita al 30. E poi quando mi arriva la patente nuova, tanto a me mi scade a luglio, il 7 luglio. Tre giorni ce l'hai, ma l'hanno data in due giorni a me. Sì, ma la mia ancora non è scaduta, non penso che mi diano la patente nuova subito, boh. E mi uso ancora quella vecchia, poi la nuova la userò quando la vecchia scade. Ti danno un foglio, ti danno, e circoli con il foglio se è scaduta, fino al giorno che devi andare alla visita. Io la visita la faccio il 30 aprile, però la patente mia scade il 7 luglio. E allora puoi usare la patente. Sì, vabbè, meglio così, dai, fatto un fatto, come penso più. Comunque me l'ho chiesto la scuola guida quasi 100 euro. Allora io ho fatto i versamenti prima per andare a fare, avevo speso 80 euro, avevo speso. Infatti non mi sono incartato marco, ma l'80 euro. Perché a me mi ha detto mi devi portare il certificato del pulmologo, il certificato del diabetologo, il certificato del cardiologo. E gli ho detto scusi, quelli che sono lì, cioè il certificato cardiologo, diabetologo e pulmologo. Sì, ma questi sono di 3 mesi fa. E che cazzo do all'ospedale? Disponibili per me, io a pagamento non ci vado. Se me li dà lei, solo si vado e me li faccio a pagamento. Non ho capito. Quelli li ho fatti da poco, ormai delle date, gliele ho fatte. E mi ha detto, io li voglio più aggiornati. E dicendo di voi, la rimani, mi dai soldi, vado e li faccio a pagamento. Ma fatti incazzare la giudizia, andassi in ora a mare, a giumarsi da di volte a chi ne ha pigliato un asciutto, a chi mi sono pigliato in canna, chi si imbecille. Un asciutto l'ha pigliato, si credeva che era nel guantallo. Vabbè, se vuoi va, purtroppo è un casino. Vabbè, fatto un fatto, non mi interessa, l'ho fatto, io sono a posto. E dopo mi ha detto, sì, però qui non c'è il foglio, come lei c'ha lo sigillo, la chiamata da dare un computer. Ha detto, guardi, basta le labbra alle orecchie, gliel'ho detto a voce, che c'ho anche lo sigillo, che cosa le deve arrivare? Un foglio di bombone le deve arrivare. Ma fate cazzo, infatti gli altri della commissione che erano lì, mi ha detto, lo lasci dire, lei porti quei documenti e se ne prende. Ha detto, ma faccio posto così, non mi interessa un cazzo, vuol dire di vivere. Ha fatto, ho girato la spalla e me ne sono andato. Graziano. Ehi. Non mi senti mai tu a me. Io ti chiamo ma non mi senti mai. Adesso ti ho sentito. Sei basso però, ma dove sei, in cantina secca? Adesso non ti sento, tutta a tratti. Vai sopra il terrazzo, vai, che almeno ti ascolto. Adesso ti sento, parla, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questa posizione ti sento, l'ho sollevato perché coricato sul tavolo con questa radio, prendo bene a Luca, a Gio Maria, all'altro Luca, a Giulio, a te ti sento così, parla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutto maniaco sensuale. Ehi, non ce l'hai WhatsApp, se no ti mandavo un po' di carrellate. Brutti boscu. Fresco tu che ti metto. Devo svuotare tutti quei filmati che c'ho, cazzo, me ne mandi altri. Non saranno. O se no ti metti Messenger, te ne mando una carrellata lì. Belle! Mandali a Luca, non mandali a me, sono pieno di film porno io, qua a casa, capito? Adesso me li sto vendendo anche, non solo l'altro. Ho trovato un centinaio di sera nel cassonetto della Mondezza, tutti nuovi, in CD, figurate, me li ho venduti a 5 euro l'uno. Hai capito, Luca, sentito hai Antonello? Vabbè, sono qua, non ho bisogno di abbaidarli, è il vostro. Vieni a farli in tirano, hai capito? Ho fatto i soldi, sono andato al circolo, me l'ha già venduti tutti, Tutti così pochi, so, al circolo, a te muove, bubu. E cosa me li tengo io? Me la fatto assai a me. Io ho quattro DVD, dammi quelli. Sono agganciati all'impianto stereo, due. Mi ascolto la P4 e quello che è. Allora quando ci passo me ne presti un paio a vedere per tirarmi sul morale, vero lui? Ah, ti do pure grazie, anche di voi. Gigi. Il Riccardo, allora di voi. Dammeli. No, quel sagnotto gli ho dati tutti quanti a Calimero perché c'era giù, ce l'avevo buttato il coso, ne avevo due, però dei cigaccetti ne avevo un coppano e mezzo ne avevo, infatti mi ha trovato il giorno che stava andando a buttare al cassone. Ha già messo un coppano, ha detto, arrivo i cigaccetti a Calimero. E dove capita a me, temi, finito pure il borno e chi ti piace. Sono tutti vinciati. E se li aveva presi lui. Guarda, quando vieni qua te li do quei DVD che c'ho me. Te li porti via, te li regalo, non è fatto niente a me. Quelli DVD, i CD, più che altro, so. E così te li guardi la notte e passi l'ora, passi. Ehi, lo sai cos'è? Quando non c'è niente al televisore, mi pongo qualche CD per dire, l'altro mi ha dato uno. Ma ieri un nuovo, un ultimo film, io so che film è d'azione, so che ancora badammi. Infatti sto aspettando, se non c'è niente stasera, domani lo prendo e mi guardo quel film lì, perché è un film d'azione, mi ha detto. E quei film già sono belli lo stesso. E non ho mai detto il televisore, tutti i film già dati. Già va bene. No, io uso più che altro il DVD per mettermi i CD, capito, del ascoltarmi gli MP più 3, più 4 della musica, capito, scaricata dal computer. E quindi me lo vai, ne ho tre di quelli, grazie a Dio. C'ho due Amstrad, due ne ho trovato nella mondezza e funzionano benissimo, leggono tutto. Poi c'era un altro di, ne ho tre o quattro DVD, io la vedo, ma ne ho solamente uno. Adesso da poco mi ho guardato un CD di Stanleyulio, uno me l'avevano regalato. Dopo la luce al televisore mi ho guardato Stanleyulio, anche se l'avevo visto un sacco di anni fa. Sono belli da rivedere questi film di Stanleyulio. Magari a buscare questi film di romani, ti ricordi? Oppure quelli di guerra, che di vecchi, ma noi moderni, di avapata con i film vecchi, quelli già sono belli. E in quei film ci lavorava un sacco di gente. Chi si dava a fare dei ricchi, tutto fatto a computer, quali? 140 sono videocassette, verità. Sembra di 3 o 4 porno. Gli altri sono tutti normali, ci sono... mi sembra una quindicina di cassette che sono tutti delle partite degli anni 80-90, figurati tu, dell'Italia. Poi il resto tutto film. Sono pieno di film, so. Più di tutto c'è. Rambo, è poca roba. No, le partite non mi piacciono, me le avevano regalate una serie, la dite mai inutile che me le regali, intanto le do con altro, no, non me ne guardo io di partite di calcio, mi guardo così così quando sono i campioni mondiali e buh, e basta, però guardare partite è raro, capito? No, non mi attira a me un pallone, no. Prima sì, vedi, il pugile me lo guardavo, lo davano più spesso. Poi Brunici mi ha stufato e non ne ho più guardato. E poi non ne so degni incontri di pugile come li davano sempre, di lotte, queste cose così, già li guardavo. Poi però no, non ne ho più guardato. C'ho un cofano di videocassette io, più due videoregistratori completi, funzionanti a posto, nuovi, nuovi, nuovi proprio. Figura di due, ne ho roba, non è che non ne ho, no, più alimentatori per telefonini cellulari, ne ho poca roba, adesso non so neanche cosa farne, la verità, adesso decido un po' fra un paio di giorni cosa cazzo fare. Di quegli alimentatori piglio e faccio tutto un viaggio, se li vuole cosa, Portobello è bene, se non mi primo cassonetto vicino lì che c'è di fronte a Portobello ti dà un po' tutto, ti lampo. Tanto se vado nella portiera non ti la manco una lira. Quindi ci butto tutto lì, se la biglia in culo. Oh, il Portobello c'ha telefoni Nokia, un sacco di marche anche buone. A De Giro in chissà vetrina, gli abita una riga, non imbiglia nessuno. Oh, la Conforama al Martezzi, da poco stavo guardando, c'era una vetrinetta dei vecchi telefoni, quelli più piccoli là, a 10 euro, a 7 euro, ma non imbiglia più nessuno. Io di quelli ne ho 4 qua, che in casa ne ho anche uno con lo sportellino, che è bellino, l'ho usato sino a quando vi ho preso questi due telefoni qua. Però adesso sono più belli questi là, ti guardi internet e tutte queste stronzate là, la cosa bella venuta. Già lo so, infatti, vabbè, tutti usano quelli ormai, quindi si usa più quei Nokia di una volta, Motorola eccetera eccetera, chi li usa più? Riprendi lui, se no fuggono, riprendi tu. Sto facendo la barba, riprendi pure, manca in ascolto. Ehi, aspetta che mi accetto 2 minuti, Antonio. Ehi, ciao Luca, buona barba, cosa mi hai chiesto? Aspetta, stavo chiamando, c'ho il getto di pirmi. Beh, Tore, ma non ci sei più. Antonio, ci sei. Ciao Mari. Ehi, te bava. Riprendi. Meno male vi siete ammazzati, cazzo, poi la gente la vedi fucica per vincere la side road. Guarda, la rotta è troppo lunga, non va bene, grazie. E basta entrare! No, io stavo parlando perché non entrava nessuno, ho pensato che ve la diffuscate, cosa ne so. Bisogna di boccia parità, non finiate più. Beh, la Borussia, il parcheggio. Voi te la fate fuggire a ieri. Vabbè, Tore. Tore devi lanciare la lenza, papà lo va a vedere. Vabbè, ma almeno, cazzo, bisogna ricordarsi che c'è anche altra gente, sennò è chi dà ragione. Ti allaggio la pazienza, sono come se pure la televisione, sennò capito che chi dà ragione. Scusa, basta far entrare, se tu non fa vedere è logico, io riprendo. Basta far entrare tu. Non è che ce lo devo dire se prima entra, entravi. Ma io se non lasciate manco bianco, cosa vi so dire? Non lasciate nemmeno bianco, capito? Fate a chiedere, lo finiti più. Bisogna anche pensare agli altri, no? Ma non lo lasciamo bianco, ne ho lasciato di bianco a voi, apposta, e non entrava nessuno. Non i barzelletti. Sì, bravi siete, bravi, sì. Tore! Sì, a Giammarì. Cosa gli dici? Un bezzo cantato? Sì. Io sono andato dove? Però tanto me la prendendo un televisore. Ecco, visto là. E se volevi entrare, entravi. E lo spazio lo lasciate. Se a prendendo un televisore non vuoi voluto entrare. Come ti ha fatto Tore e fatto giù. Di la verità. Meno male. Che bugia sai che mi dici di rulare in gatti di tiro. Meno male non ti risponde Tore. Fatti me, a chi è che bisogna lanciare la rete a bucare una parola? Hai gatto di riposo di dici, e cosa ti dico? Apri di cudo. Di. Per carità. Ma chi c'è oggi? Non è entrato tu? Sì, ma quello che si è rotto è muscia. Attento, Marchisio. Marchisio, ma sei sotto con te di rispondere a Galo Fiori. Beh, io chiudo. Ciao a tutti i circolari. A domani, se ci siete. Senti su Giomari. Giomari. Tanto vado io. Mezz'ora guai, allora la giarra. Non devo fare sciurina, me lo vedi. E poi non rilancia a me figlia Edu, capito? Graziano, Graziano. Anda a vedà. Meno male, già ho le spalle larghe io. Sì, già non lo fa vedere più. No, è andata a farsi l'insulina, ha detto. Ah, ho capito. Mi sentite domani? Ecco, zitto. E allora, ma come che mai? Sarà un bacchiglio che entra? Boh, sarà fennegosa, boh. Beh, Marino, boh. Marino, va se zappende, va se. Deve essere tagliato ancora l'alba, finché c'è luce. Ah, così, beh. Cosa hai combinato oggi, to? Cosa hai combinato? Sempre Matteo Setturia. Ah, zitta, ora devo andare a tirare un bicino. Rientra, magna e riposami. Insomma, sempre come tu donna lì, sul tra strada, e vabbè, almeno non ti annui, dai. Infatti. Infatti, bisogna incavolarsi qualche cosa, ma tu ci affinai d'ugna di un travaglio, cazzo, andà a pigliare a uno e all'altro, dai, dai. Purtroppo sì. E anche quello un dovere, affinai anche quello un dovere. Ah, ma come tengo occupato. E infatti, gli arugriria. Ah, siete che c'è mamma, signor Bacchisio. Attenzione, signor Bacchisio. Tutto da va. Sì. Impegnato voce, va sì allora, to. E va sì, impegnato voce. Oh, comunque oggi c'è, la giornata non era brutta, ma c'era il venticello freschetto, vero, to? Cos'è, Giammari? Altro che oggi, non era di fea, però era l'arietta fresca. Sì, vabbè, andiamo così, andiamo piano piano. Ma hai capito quello che ho detto? Ho detto che oggi già era bella giornata, però c'era l'aria fresca. Beh, forse con chi lo greccare, gli ero grido. Va bene, mi senti tu? Sì, io sì. Ah, che dice me, Luca, mi sentivo un po' quel remme. Non so chi è che sono con me, si è attontunato. Stiamo andando via già, per carità. Vediamo un po' se c'è Marino. Attento Marino. All'aleare. Luca Montanaro. Anche Luca ha chiuso. No, Giovanni, sono qua in ascolto, dai. Mi stavo facendo la barba prima. Ah, fatti bello, mi raccomando, Mi raccomando, c'è lo salotto, già lo sai. E cos'è bello, Giovanni? Tanto chi sa la messa, mi? Non potrei mai essere bello come quello là, capito? Eia, già ho capito. Bene, da riprendi, ce la so, ce la so. Sì, mi pare meglio mettere il gocco. Cioè, arrivi da il suo punto. Oh, Giulia. Ah, questi musini, sto, onde la vacca da baciccia. Sì. Tanto che dalla Giulia. Comincia a preparare tutto, che fra poco abbiamo appiccato. Sì, subito. Oh, Giulia. Allora, ma come andiamo un bel freco? Emmo, se no te lo comparemmo. Ma figura di là per comprarlo, perché da maniera no. Sì, da maniera, vivo sempre di là, paesci. Dai, va bene, io chiudo, dai. Io chiudo, ci siamo domani, dai, se Dio vuole. Buon presumento, saluto lì. Ah, tu dato devi andare a prendere la 50, sono già andato, sì. Dove? A prendere la 50, è già andato, sì. È rientrato Buru. Ahi. Allora, dai, sempre Bacchisa, salutamelo. Io chiudo, a domani, ciao. Sì, ok, ciao Giammari, ci sentiamo domani. Ciao Giomari, alla prossima, ciao. Grazie, no, già Sarrato. Come dici, entra, poi sarà alle 7:30, Susanna. Ciao, ciao Luci, sentiamo. Aspetta, forse è andata a farsi risolina, che ha detto. Sentiamo, ciao Luci, riprende. Ciao. Così, Vito, tutti spariti. Sì, ama come abbai il televisore in pazzi, il telegiornale. Chi tu che fai i film di Borno, se ne è fuggito, prima ha buttato la pietra. Sì, vabbè. Tanto. Ama questo che più bello, in pazzi e tutto. Ah, vabbè, dai, lascia tutto pure lui, tanto sarà anche mezzo scarico. Ci sentiamo domani, tu, dai, se Dio vuole. Ciao. Buona TV, ciao, buonanotte, quando andrà a dormire, ciao. Sì, ok, ciao Luca, ci sentiamo domani. Beh, ciao Mari. Ciucu, ciucu, ciucu, ciucu, ciucu.